Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sulla scia dei ponti e delle festività di questi giorni torna d'attualità il tema delle aperture festive e domenicali dei negozi. Dopo il liberi tutti deciso dal governo Monti con il decreto Salva Italia, anche quest'anno hanno fatto notizia le aperture a macchia di leopardo, le scelte diverse delle grandi catene, Italy aperti, Esselunga chiusi, solo per citarne due, gli scioperi dei sindacati e le proteste dei comitati, quali liberiamo la domenica. Domenica no grazie, salviamo la domenica. Tutto questo mentre alla Camera è in discussione una proposta di legge che prevede un numero di feste con chiusura obbligatoria. Abbiamo deciso di tornare sul tema parlando di un film documentario su commesse e centri commerciali. Siete pronti a farvi contagiare dalla carioca mania? I mondiali di calcio in Brasile si avvicinano e il mondo dei consumi cavalca l'onda. In chiusura, come sempre, il nostro Italian Factor. Questa settimana l'elemento di attivazione dell'eccellenza italiana è la meraviglia. La borsa della spesa. Come sindaco di Lanschenè voglio darvi il benvenuto nella comunità e anche invitarvi ad onorare con noi la messa della domenica. Lei è molto gentile, ma noi non siamo praticanti. Spero che verrà a trovarci quando avremo aperto, tra una settimana. Sì, aprire una pasticceria durante il sacro digiuno quaresimale, non immagino un momento migliore. Oh, ma io non voglio mettere una pasticceria. Allora cosa hai intenzione? È una sorpresa. Ci è già capitato di usare questa citazione dal film Chocolat per parlare di aperture festive dei negozi, un tema spinoso nel mondo del commercio tra diritti dei lavoratori, crisi e contrazione dei consumi da una parte, liberalizzazioni e tempo per la famiglia e le relazioni sociali dall'altra. Un tema di cui ci siamo occupati più volte, questa volta partiamo da qui. Si è parlato tanto di liberalizzazioni, ma l'unica vera liberalizzazione che si è stata fatta quella del commercio. Non viene più valutata la persona, non viene più, proprio non esiste, ci siamo ridotti i numeri. Nell'ambito del commercio, sia come commessa che come cameriera, barista, non ci sono sabati e domeniche. Che non hai più il momento di riposo insieme, e questo pesa. Vite al centro, questo è il titolo del documentario che racconta la storia di due amiche che lavorano in un centro commerciale, due storie simili a molte altre che danno il là ad una riflessione sui modelli di consumo e di vita e sugli effetti di una liberalizzazione non sostenuta da misure parallele per il welfare familiare. Riflessione frutto di un territorio come la provincia di Brescia che detiene il record europeo di metri quadrati di centro commerciale pro capite, un dato 4 volte superiore alla media. Un documentario autoprodotto e autodistribuito, collaborativo in ogni suo aspetto, dal crowdfunding che l'ha sostenuto alla produzione partecipata che si è arricchita nel tempo dopo una serie di proiezioni parziali della storia, una sorta di narrazione collettiva, insomma. Ne abbiamo parlato con il regista Nicola Zambelli. La Genesi del Lavoro è stata un'associazione territoriale del paese in cui sono nato, che è un piccolo paese alle porte di Brescia. A seguito della proiezione di un nostro precedente documentario autoprodotto, ci aveva proposto di provare a creare insieme un progetto e provare a raccontare la trasformazione che è avvenuta in questi anni nel mondo familiare in seguito al contesto della crisi e anche alla trasformazione urbana, cioè come un po' stanno cambiando le famiglie. Questo è appunto un punto famiglia Acli di Castelnella, e quindi da lì insomma è partita un po' la riflessione, e si è trovato che un tema molto pregnante in quel momento era quello della liberalizzazione degli orari del commercio, con anche un conseguente cambiamento del panorama urbano. Ovunque volgiamo lo sguardo nelle periferie urbane si mostrano consistenti, grandi, enormi questi cartelli domenica aperto, e questo è un cambiamento che ovviamente ha un riflesso sulla vita delle persone, delle persone impiegate nel commercio. Ha sicuramente determinato un cambiamento forte delle abitudini delle famiglie, perché tutti possiamo notare quanto fine settimana i parcheggi e i centri commerciali sono pieni di macchine, e contestualmente si è modificata anche una trasformazione lenta, questa che perdura da un po' di anni, anche proprio nell'urbanistica, che anche questa ovviamente condiziona le relazioni sociali e le abitudini delle persone. E in quella zona, a Brescia Ovest, si può notare una grossa concentrazione di centri commerciali. Quel paese è il paese con la media europea di metri quadrati per abitante pro capite più alta d'Europa. Ogni abitante di Roncadelle ha, come dire, in dotazione 9 metri quadrati. Milano ha lo 0,12 metri quadrati per abitante, ma Brescia come città ha lo 0,4, quindi è 4 volte la presenza di centri commerciali di Milano, e quindi facendo anche un po' le debite proporzioni tra Brescia e Milano è abbastanza interessante. Quella che emerge è una fotografia spietata in qualche modo del presente, soprattutto con mille contraddizioni sul modello economico, il modello familiare, quello sociale. L'idea che mi sono fatto è che questi spazi siano in realtà delle grosse macchine commerciali, cioè questo è evidente, in cui però la qualità sia del lavoro che della condizione di essere un lavoratore tende ad impoverirsi, così come la qualità dell'essere un consumatore, nel senso che per il nostro mondo europeo, che viene diciamo dalla tradizione greca e latina, in cui, o rinascimentale, in cui la piazza ha un valore politico, sociale molto pregnante, sicuramente queste nuove piazze, che sono piazze private, ci devono fare un po' riflettere, ci devono anche far riflettere sul modo in cui come consumatori noi le viviamo questi posti, perché un'altra cosa che abbiamo riscontrato, il consumatore tende a essere sempre più maleducato, tende a riconoscere sempre meno la condizione del lavoratore che ha di fronte, o tende ad avere meno rispetto per i prodotti che ha di fronte, e questo per me è un grosso tema. Non voglio alzarmi, è domenica. Voglio pensare solo a te che dormi su una nuvola, a te con me e a me con te. In fondo è una giornata stupida, di alternative non ce n'è, quello che c'è è una noia umida. In questa stanza senza te. Il primo maggio, come abbiamo detto in apertura, anche quest'anno ha riacceso la discussione sull'apertura festiva degli esercizi commerciali. I sostenitori della libertà di apertura ricordano come oggi attraverso internet sia possibile comprare da casa in qualsiasi momento, indipendentemente dal giorno. Gli oppositori invece fanno presente che la liberalizzazione non ha incentivato i consumi e ha finito col rendere più profondo il solco tra piccola e grande distribuzione. Il consumo oggi è un servizio, le limitazioni non hanno senso, bisogna intervenire sull'organizzazione del lavoro e sul welfare familiare, è l'analisi della sociologa dei consumi Maura Franchi. Io credo che non possiamo ignorare le profonde trasformazioni sociali che sono intervenute negli ultimi 20 anni. Siamo oltre la società di massa, lo diciamo sempre, siamo oltre la società in cui tutti facevamo le stesse cose nello stesso momento. Adesso non è più così, le nostre vite sono flessibili, i nostri tempi di lavoro e di svago sono meno standardizzati di quanto fossero un tempo, i ritmi delle nostre giornate sono diversi per ognuno e ognuno ha le proprie esigenze individuali. Quindi ecco, io vorrei collocare il tema del consumo dentro a questo contesto che è diverso, e quindi considerare il consumo anche come servizio. D'altra parte farei anche un'altra riflessione che forse può sembrare marginale, ma non lo è dal punto di vista sociologico. In una società che è già multietnica è impossibile decidere quali giorni dedicare al riposo e quali feste devono essere santificate. Ognuno santifica le feste che crede di santificare. Quindi io partirei da un problema di mutamento del contesto sociale, che è un contesto che è più flessibile e che inevitabilmente propone per ogni individuo o per ogni singolo, appunto, e anche per ogni gruppo sociale, modalità di accesso al tempo di lavoro e al tempo libero che sono diversificate. Ecco, da questo punto credo si debba partire per non fare solo retorica, insomma, i discorsi difensivi secondo me sono destinati al fallimento. Al di là delle limitazioni o meno alle aperture, forse ha senso parlare, intavolare la discussione su come viene organizzato questo lavoro, ecco, sulle politiche di sostegno, ecco, del welfare familiare. Questo è il secondo pezzo di ragionamento che proporrei, insomma, l'attenzione, è che l'organizzazione sociale cambia lentamente e l'intelligenza sociale soprattutto è più lenta e non vede soluzioni che potrebbero essere praticabili. Per stare proprio sul tema distribuzione, perché non pensare a soluzioni organizzative, ad esempio condotte con turni, ad esempio dei punti vendita aperti, no? I cittadini di un quartiere avrebbero comunque ogni domenica, ogni festa, un punto vendita aperto, e però i lavoratori avrebbero un solo giorno, magari ogni 6 mesi, di lavoro obbligato in una festività. Quindi ci sono soluzioni organizzative, però sono soluzioni che presuppongono una cooperazione. Credo che si possano trovare soluzioni organizzative, ma soluzioni organizzative che presupporrebbero un atteggiamento di organizzazione sociale più flessibile, un'intelligenza sociale nuova. Davvero oggi il tempo libero equivale al tempo del consumo? C'è chi fa questa equivalenza? Il punto è che quando diciamo questo, quando ci poniamo questa domanda, stiamo dentro ha una idea di consumo demonizzata e demonizzante, perché continuiamo a pensare che il consumo sia merce indotta dal mercato e dal marketing. In realtà il consumo è diventato ben altro in questo tempo, è diventato un bene di cittadinanza per molti versi. Le faccio un esempio: noi in qualunque posto siamo, possiamo ordinare un libro se vogliamo, prenotare un aereo se vogliamo, fare una spesa online se vogliamo, accedere a una informazione, questo è consumo. Quindi il consumo è profondamente cambiato in questo tempo e non può essere demonizzato solo come, come dire, un atto subalterno al marketing che i cittadini, gli individui compiono per forza, ecco, perché in realtà tutti noi siamo, credo, più responsabili, più consapevoli, più critici, più capaci di scegliere, ma viviamo ovviamente consumando anche tempo libero, consumando servizi. Mio padre era capostazione e capitava talvolta, quando ero bambina, che il 1° maggio o a Natale potesse lavorare. Ecco, in quelle occasioni si sentiva un eroe nazionale, nel senso che sentiva di svolgere un compito che era una funzione sociale. Ecco, io credo che sia questo poi il punto, è la dignità del lavoro e il senso che ognuno dà al proprio lavoro, no? Non tanto gli orari d'apertura, mi sembrano veramente un punto limitante. Essere e avere. Focus sui trend. Sarà un'estate carioca quella che ci aspetta sulla scia dei prossimi mondiali in Brasile. Il Tropical Mood ispira molti prodotti nella moda, nel design, nel make-up, ma non solo. Il mondo dei consumi cavalca l'evento, molti brand propongono limited edition direttamente ispirate ai mondiali, altri più in generale al Brasile, tutti comunque all'insegna di un immaginario fatto di colori, frutti, fiori e musica. Ovviamente è un vero e proprio tuffo nello spirito di un paese, nei casi più riusciti, nelle sue espressioni più autentiche. Ne parliamo con Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ben ritrovata. Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti. Sabrina, sui magazine, sui siti, sui social iniziano, insomma, a vedersi molti di questi prodotti e campagne ispirate ai mondiali. Da dove partiamo? Partiamo da un paio di considerazioni su Brasile, immaginario globale, direi, e in questo momento è proprio il Brasile. e in particolare la città di Rio, che condensa una serie di icone che sono al centro dell'attenzione, proprio in un vortice di stimoli, immagini, rimandi e prodotti, appunto, perché non stiamo solo parlando di tutto ciò che ruota attorno qua all'evento sportivo, ma anche di tante iniziative di comunicazione che ricollegano le culture del consumo alla cultura di questo paese. E quindi, anche se per obiettivi di promozione e vendita, di fatto vengono rilette creativamente le icone, riproposti paesaggi, storie, personaggi, colori anche, no? E quindi per far immergere anche chi è a casa un poco dentro questa atmosfera. Ecco quindi che il Brasile, diciamo che noi possiamo in qualche modo anche evidenziarlo attraverso ricerche correnti, che è uno dei paesi al mondo con più tasso di immaginario, con una ricchezza tale di stimolazioni narrative, architettoniche, paesaggistiche, iconiche, da essere allo stesso tempo anche una delle più facili prede di stereotipi. Ma quello che ci interessa in questo momento capire è come anche la sfera della cultura materiale quotidiana, il mondo del consumo, si stia muovendo. Citiamo un po' di questi prodotti che si stanno ispirando alla carioca mania, così l'abbiamo chiamata. Certo, proprio carioca mania, per esempio, nell'area della bellezza e della cosmetica in Italia trovano due esempi, due marchi particolarmente rivolte alle più giovani. Abbiamo la collezione Life in Rio di Kiko e Viva Carioca di Pupa. Fra l'altro entrambe non solo lavorano sul colore, su una varietà grammatica molto, molto energetica, diciamo, ma entrambe ripropongono l'immaginario di Carmen Miranda, una grande diva che è scomparsa ormai quasi 60 anni fa, ma ancora con grande forza, no? Con il suo turbante tutti frutti, ecco. Quindi, rimanendo anche nell'area della moda giovanile, ma spostandoci all'abbigliamento, troviamo anche la collezione di Bershka, con una collezione che si chiama Paradiso Tropicale. Ecco, qui gli elementi di ispirazione sono quelli legati alla natura, alle forme, alla varietà e quindi alla materia stessa dell'universo vegetale tropicale. Ma non soltanto in questi prodotti, diciamo, più di largo consumo, più rivolti a un mondo, diciamo, giovanile, non solo per età ma anche per spirito, troviamo anche altri casi. Ecco, cito Yamamoto per Adidas, quindi quella che anni fa è stata un'esperienza di grande successo anche per il mondo del design, che è diventata una collezione continuativa. Ecco, per la Coppa ha proposto una collezione limitata, sempre ad alto impatto di creatività. Oppure Cortigiani, un brand italiano noto per la saltorialità, la qualità dei suoi capi, che ha lanciato una collezione pensata proprio per questa occasione, lavorando sui colori, l'esterno monocromatico, giacche, non so, per esempio gialle, ma molto eleganti allo stesso tempo, e sulle stampe originali, anche qui di ispirazione vegetale per l'interno. Molto colore, quindi, Sabrina. Assolutamente, direi che ancora una volta l'impatto cromatico a essere al centro, come, diciamo, a ribadire che il senso del colore, della forma e della materia, che sia per gioco, per moda o per passione, può anche essere indossato. Ecco, e in questo senso si trasmette anche quella certa vocazione sensoriale del Brasile, quella vocazione sensoriale che fa parte proprio del DNA di questo paese, che insieme a una centralità delle relazioni umane viene più immediatamente trasmessa, cioè proprio anche un po' per empatia, e quindi anche accolta da altre culture. Naturalmente in questo momento il marketing sta cavalcando tutti i linguaggi di questa plasticità creativa, e anche spesso ribadendo altre forme narrative della, diciamo, della Brazilian way. Vorrei farti un esempio, così per uscire dall'ambito della moda e della bellezza, per entrare nella sfera degli oggetti quotidiani. È un solo esempio. Victorinos, il coltellino svizzero multiuso, che ha proposto delle versioni brasiliane di questo oggetto, che ormai è un classico, lo conosciamo tutti, no? Ecco, ora abbiamo la versione che riprende i nastrini colorati del Nosso Signor do Bonfim di Bahia, quelli che si annodano al polso esprimendo desideri, oppure riprendendo i colori della bandiera brasiliana. In questo senso è curioso vedere come uno standard della cultura materiale svizzera, un'icona per forma e colore, possa incontrare e anche incrociare con successo anche creativo una cultura così, così lontana. Ecco. Un ponte molto singolare quello tra Svizzera e Brasile in questo caso. Ecco, Sabrina, la tendenza porta con sé anche un'attenzione ai fenomeni culturali e sociali del paese. parlava di cultura materiale e di fatto è proprio attraverso il nostro rapporto con gli oggetti che ribadiamo il nostro legame con le cose, le storie del quotidiano, ma anche con quello di altre persone, altre culture. Quindi anche se spesso attraverso alcuni stereotipi c'è sempre un pezzetto di conoscenza in più che gira, magari anche attivando un po' di curiosità che cresce e ci spinge a viaggiare e incontrare veramente quel paese. Intendo personalmente, ecco, al di là dell'effetto da cartolina. Appunto, credo che far girare storie, immagini, possa avere comunque un riscontro positivo. E del resto, oggi la cultura digitale ci permette di avere un accesso personale, immediato e più critico alle informazioni e suggestioni che riceviamo. Lo ha capito anche Coca-Cola, che ha ripreso con un video pubblicitario che sarà trasmesso anche in questi prossimi giorni e settimane, ma che sta girando già su YouTube, riprendendo il passigno, che letteralmente vuol dire piccolo passo, un ballo inventato in alcune comunità delle favelas di Rio alcuni anni fa da gruppi di adolescenti. Ecco Sabrina, lo abbiamo prontamente recuperato, postiamo il link sulla nostra pagina Facebook, ascoltiamo per qualche secondo la traccia musicale. Vinci va commessa, un mondo non so lugar, io sono da batida, na palma da mão, perché na palma da mão, perché na palma da mão, perché na palma da mão, DJ, aperti o play. Ecco, si tratta di un ballo e una musica che sono comunque figlie del funky carioca, quindi con delle radici proprio in questi territori, una danza che proprio in questi ultimi anni è diventata anche un modo di aggregare, socializzare e competere sportivamente fra gruppi di adolescenti delle diverse favela. Una realtà che si è sviluppata positivamente, che è stata raccontata dal bel film documentario A Battaglia do Passinho, La Battaglia del Passinho, quindi anche per spingere una competizione positiva, creativa, ricreativa, un fenomeno spontaneo che è diventato un progetto sociale. Vorrei segnalarti un esempio molto curioso, questa volta è un prodotto brasiliano dove al centro c'è una certa ironia e soprattutto autoironia. Un piccolo prodotto lanciato da Kuvizu, è un negozio che sta crescendo molto ultimamente, ha due sedi a Rio, a San Paolo, ma sta crescendo e c'è anche la versione online. È un negozio di abbigliamento, accessori e gadget di gusto pop, diciamo. Ecco, in questo caso ha giocato su un certo immaginario superstizioso e ha proposto dei pupazzetti di stoffa vestiti con le maglie delle diverse squadre, naturalmente non brasiliane, e così strizzando l'occhio a un gioco voodoo, a un gioco voodoo per proiettare pensieri e spilline magiche su questi pupazzini di stoffa per favorire la vittoria della nazionale brasiliana. Ti chiedo una riflessione conclusiva: al di là degli esperimenti più o meno riusciti, questa carioca mania è una tendenza che secondo te riesce ad andare al di là degli stereotipi, che farà comunque bene al paese e alla sua conoscenza? Io penso che stimolare l'incontro delle culture sia sempre positivo. Sicuramente sta anche alle persone di andare oltre la facciata proposta, però anche divertirsi attraverso un colore indossato, attraverso uno smalto o attraverso un gioco può essere una bella forma di incontro. Italian Factor. Prosegue il nostro viaggio alla ricerca di un'italianità tutta da individuare e valorizzare. È il nostro viaggio alla ricerca dell'Italian Factor e dei suoi elementi di attivazione. A guidarci nella riflessione c'è come sempre Francesco Morace. Ciao Francesco. Buongiorno Maria Luisa e buon pomeriggio a tutti. Oggi di cosa ci parli? Ma oggi è molto bello, affascinante il tema perché è la meraviglia. E qui io partirei da una citazione filosofica universale, la metafisica di Aristotele. Aristotele ci spiega che la meraviglia è la scintilla da cui nasce il pensiero e la conoscenza, cioè anche gli antichi guardando il cielo erano meravigliati dalle stelle e da lì è nato il bisogno di conoscere. tutto questo ha molto a che fare con la creatività. Esattamente, la meraviglia è parte integrante della storia delle aziende italiane, delle piccole, delle grandi. Se noi analizziamo, ed è sempre molto affascinante, intervistando ad esempio gli imprenditori e analizziamo la storia anche di aziende importanti e grandi, scopriamo che c'è sempre un elemento di meraviglia e anche qualcosa di inaspettato. Faccio un esempio: Nerio Alessandri che arriva alle macchine per il wellness partendo dai motori delle motociclette, quindi lui aveva un'officina e poi da lì applicando, ecco, è proprio il tipico ingegno che ci arriva da Leonardo da Vinci, che proponeva sempre visioni inaspettate. Quindi la meraviglia è davvero l'elemento chiave della nostra creatività. Quanto in un momento storico come quello che stiamo attraversando l'iniezione di nuove forze, nuove menti, risorse giovani può facilitare questo processo? Io credo moltissimo, e in più credo che la multidisciplinarietà, cioè far incontrare settori che apparentemente sono lontani, ecco, quindi l'effetto meraviglia può essere anche nell'incontro con il diverso, no? Con la diversa disciplina, con le diverse idee, e su questo naturalmente i giovani sono più bravi perché hanno delle menti aperte e fresche, quindi disponibili all'inaspettato. Grazie a Francesco Morace, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, link, foto e video come sempre sulla nostra pagina Facebook. A sabato prossimo. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.